Io vado di tutto per reinserirmi nella realtà. Come dicono in clinica, si direbbe che ci sono riuscita. Sono riuscita perfino a essere una moglie infedele. Non devi pensare queste cose, Giuliana. Certo, bastano pensarci. Bella conclusione.